sapere che dovrò evitare il buio per un lunghissimo spaventoso giorno. Ma brucio, brucio di niente, scappo dalla gente, voglio ucciderla, mi mangia la gente con quei merdosi occhi vividi che si ritrova. Evitare.